Capitolo 77. Niobe. Niobe, sorella di Pelope, sposò Anfione, re di Tebe, e gli generò 7 figli e 7 figlie. E ne andava tanto fiera che un giorno osò parlare sprezzatamente di Latona, che aveva soltanto 2 figli, Apollo e Artemide. Mante, la profetica figlia di Tiresia, udendo per caso queste avventate parole, consigliò alle donne tebane di placare subito la dea, bruciando incenso e intrecciandosi nei capelli ramoscelli di alloro. Mentre già aromatiche volute d'incenso salivano nell'aria, Niobe apparve, seguita da una schiera di ancelle avvolta in uno splendido manto frigio, i lunghi capelli sciolti sulle spalle. Interruppe il sacrificio e chiese infuriata perché mai Latona, una donna di oscure origini, con una figlia dai bruschi modi virili e un figlio effeminato, dovesse essere anteposta a lei. Niobe, nipote di Zeus e di Atrante, terrore dei Frigi e regina della regal casa di Cadmo. Anche se per destino o mala sorte 2 o 3 dei suoi figli fossero morti, non gliene sarebbero forse rimasti molti di più che a Latona? Interrotto il sacrificio, le terrorizzate donne tebane cercarono di placare Latona sussurrando preghiere, ma era ormai troppo tardi. La dea aveva già convocato Apollo e Artemide perché, armati di arco, punissero la presuntuosa Niobe. Apollo trovò i ragazzi che cacciavano sul monte Citerone e li uccise a uno, risparmiando il solo Amicla, che aveva saggiamente innalzato una preghiera propiziatoria a Latona. Artemide trovò le fanciulle intente a filare in una sala del palazzo e con una manciata di frecce le sterminò tutte, salvo Melibea, che aveva imitato l'esempio di Amicla. I 2 sopravvissuti si affrettarono a innalzare un tempio a Latona, benché Melibea si fosse così sbiancata in volto per la paura che portava ancora il soprannome di Cloride quando sposò Neleo alcuni anni dopo. Ma altri dicono che nessuno dei figli di Niobe scampò alla strage e che anche suo marito Anfione fu ucciso da Apollo. Per 9 giorni e 9 notti Niobe pianse i suoi morti e non trovò nessuno che li seppellisse, poiché Zeus aveva tramutato tutti i tebani in pietre, a eccezione di Niobe. Al 10° giorno gli Olimpi stessi si degnarono di guidare il funerale. Niobe si rifugiò oltremare sul monte Sipilo, dimora del padre suo Tantalo, dove Zeus, mosso da pietà, la tramutò in una statua che ancora oggi versa copiose lacrime all'inizio dell'estate. Tutti gli uomini piansero Anfione, deplorando che la sua stirpe si fosse estinta, ma nessuno pianse Niobe, salvo suo fratello Pelope, orgoglioso quanto lei. Secondo Omero, i figli di Niobe erano 12. Secondo Esiodo, a quanto risulta da vari scoliasti, erano 20. Secondo Erodoto, 4. Secondo Saffo, 18. Ma secondo la versione seguita da Euripide e da Apollodoro, e che appare la più logica, essa ebbe 7 figli e 7 figlie. Poiché Niobe, nella versione tebana del mito, era nipote del titano Atlante, e nella versione argiva era figlia o madre di Foroneo, descritto anch'egli come titano, e di Pelasgo. E poiché inoltre poteva vantarsi di essere la prima donna mortale violata da Zeus, la leggenda riguarda probabilmente la sconfitta di 7 titani e di 7 titanesse da parte degli Olimpi. In tal caso, essa ricorderebbe la soppressione del calendario in uso nella Grecia pelasgica, in Palestina, in Siria e nell'Europa nord-occidentale. Tale calendario si articolava sui mesi divisi in 4 settimane di 7 giorni, ciascuno retto da una delle 7 potenze planetarie. Anfione e i suoi 12 figli, nella versione omerica del mito, rappresentano forse i 13 mesi di questo calendario. Può darsi che il monte Sipilo fosse l'ultima sede del culto dei titani in Asia Minore, come Tebe lo fu in Grecia. La statua di Niobe è un masso che può vagamente ricordare una forma umana e pare pianga quando i raggi del sole fanno sciogliere il suo invernale manto di neve. La somiglianza è accentuata dalla scultura di una dea madre, Itita, incisa nella roccia della medesima montagna che risale forse alla fine del XV secolo a.C. Niobe significa probabilmente nervosa. La B rappresenta la V del latino nivis o la PH del greco nifa. Una delle sue figlie è chiamata Chiade da Igino, una parola che non ha significato in greco, a meno che non sia una forma contratta di chionos nifades, fiocco di neve. Partennio ci dà una versione diversa della punizione di Niobe. Per volere di Latona, suo padre si innamorò incestuosamente di Niobe e, vedendosi respinto, arse vivi i suoi figli. Suo marito fu dilaniato da un cinghiale selvatico e Niobe stessa si gettò da una roccia. Tale versione, confermata dallo scoliasta delle Fenicie di Euripide, rivela l'influenza dei miti di Cinira, Smirna e Adone e ricorda l'usanza di bruciare vivi dei bambini in onore del dio Moloch.